Prima che l'aurora risorga ancora, non lascia sfuggire questa notte blu che non tornerà più. D'un azzurro velo s'ammanta il cielo, canta l'usignol e si inebria il cuor del profumo dei fior. Amado mio, stanotte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore. Amado mio, stanotte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore.